Giovanni Claudio, ci sei? Dimmi Claudio. Sì, stavo guardando, volevo lasciare a posto qua. Sì, sì, sempre. Sempre radio bomba. Radio bombardata, anzi dai. Anzi, l'ho abbassata, ce l'avevo a duro, ma c'è uno e mezzo. Mettila a meno uno a vedere. Sì, a meno uno non esce. Oi, oi, oi. E vabbè, c'è Natalino anche, ma non ne ha voglia di entrare. Ebbene, anche io lo stesso Massassari. Quindi anche da me, dall'altra parte, si sta bene, qua c'è il caldo, perché c'è il lato algherese, capito? Da una parte c'è il lato algherese, dall'altra parte c'è il lato sassarese, usilese, diciamo così, no? La posizione dei frontali è esattamente nord-est e ovest, praticamente. Ma che vento è? Non ho capito, hai detto ok? Che vento è? Ah, il vento non lo so, perché adesso sono al buio praticamente. Non so neanche se ce ne sia di vento, ma ci dovrebbe essere però. Dall'altra parte c'è un bel freschetto, qua invece ho chiuso perché batte il sole in pieno, capito qua. No, qua c'è. Adesso il telefono scintilla il venticello, c'è un bel venticello fresco là. Sì, ecco cosa ti volevo dire qua. Con quell'affare che c'hai, tanto c'è anche il codice dentro, col portatile, col gommino, siamo provati a vedere se l'imbara arriva bene. Magari quando ieri c'era gente, te lo potevo dire, ma sono dimenticato, anche per solo come ascolto, tanto se arriva un ascolto è ovvio che arriva anche in trasmissione, a vedere un po' sul coso digitale con quei portatili famosi. Ma qual è l'imbara? Qual è? Quello che ne ho due io, non so qual è adesso. Sì, figurati se me ne ricordo io. Che marche erano? Sono andato all'armadio di nuovo. Sono andato all'armadio di nuovo. Non mi ricordo adesso che marche sono. Però bisogna fare la prova. Io mi ricordavo che c'era tutto praticamente. Perlomeno l'ultima volta, quando era? 3 anni fa, 4 anni fa, c'era tutto, era già codificato, pronto alla trasmissione. Poi adesso non lo so se non li hai mai usati, no, neanche io mi ricordo neanche gli apparati, figurati. No, no, codificati già sono codificati, solo che se non mi dà la frequenza non so dove trovarla, capito? No, frequenza non ce n'è, cioè ci dovrebbe essere la scritta direttamente, l'imbara. L'imbara e poi magari c'è anche la sigla del ponte. Boh, sì, già l'ho letto, forse in quello più piccolo, perché c'è uno un pochettino più grande, forse in quello più piccolo là, quel codice lì. E che quel tuo codice, te lo ricordi che l'avevamo mandato per averlo? Sì, ce l'ho scritto da qualche parte, ma tanto sono già codificati quelli. Sì, sì, c'è già nella radio. C'è già nella radio. Siccome ieri il ponte stava funzionando, c'era uno di potenza, credo, lì del sud Italia. E anche loro stavano provando tutto il circuito nazionale. Quindi evidentemente è pienamente operativo. Ma qual è quello dove c'è scritto RU16? No, no, no, non senti QRM, te ne accorgi subito. Aspetta che guardo se c'è qualcuno. Senza occhiali non riusciamo a fare più una mazza. ci deve essere, probabilmente c'hai DMR Limbara o DMR Italia scritto. So che non mi ricordo neanche se tu uscivano anche le scritte, ma penso di sì. Aspetta che lo prendo a vedere se c'è qua. Oh signore. Alla buon'ora. A buon'ora io sto studiando. Ma ormai sei troppo vecchio per studiare. Non si finisce mai di imparare. Ma quando impari poi non ti serve più niente. 3 a 0. Già serve. Già serve. Claudio, allora, sta girando la manopola. Ciao Matteo, sto girando la manopola, ho scritto un po' troppo niente, prendo l'altro. E questo è il BFDX. Questo è il WTF Digital. Adesso vediamo il RCT. Se lì dovrebbe essere nell'altro comunque. Sì, quello lì è VHF credo, ma i primi, quello è proprio vecchio. E me lo ricordo, io il tempo lo misuro in macchina, credo che sia addirittura 2-3 macchine fa. Aspetta che ho preso quello nuovo, gruppo Sassari, R16, gruppo Sassari, PMR digitale, scan Libba, questo deve essere. Sì, cosa sta facendo? Lo scanner automatico. Sì, si è fermato, scan Limbara. Aspetta un attimino, non ti muovere. Non dire ero canale. Accidenti. Quindi sono sul TG9. Prova a chiamarti se si ferma. No, ho fermato io, vediamo un po'. No, lo vuoi lasciare andare, mannaggia, che ti sto chiamando. Dimmi quando è in moto. Sul TG9 ti sto chiamando, TG9. Prova. Niente? No, niente. Oh, che strano, eppure passo. Eppure ci sono. Guarda, tra quei gruppi, girando la manopola dei canali, ci dovrebbe essere il... Dove sta trasmettendo? Ma se tu stai trasmettendo, esatto che c'è una trasmissione, Ma lo schiaccio qua mi dà X-Fry Poly RX. Aspetta, lo sto trasmettendo, link chiuso, porca miseria, aspetta, SXIT per caso, c'è quel canale? SXIT, quella in diretta, ce l'hai? SXIT, che è a 4.50 esattamente, 433-450 il canale Simplex DMR. Esatto, eccolo qua. Sì. Arriva, caspita, vedi com'è, che rendimento che c'è, è micidiale veramente, ottimo, mi fa piacere che funziona perfettamente ancora, però sicuramente se con calma poi ti segni i canali, è abilitato anche per il ripetitore. Sì, questo è il 433-450, quello del gruppo, sempre in digitale. Oh, funziona benissimo, l'ho sempre custodito bene questi, soprattutto questo qua, ma anche l'altro, ce li ho tutti e due, erano dentro l'armadio, li ho tolti, adesso lo metto a caricare, fidati questo senza caricarlo, già da un bel po', e c'ha sempre due tacche, ecco che è potente, mia, me lo devo comprare, almeno per ascoltare. Io non so come funziona per ascoltare, boh, ma lui lo può usare per ascoltare solo. Non penso, perché deve avere sempre il codice d'accesso, se non c'è nominativo non si può fare, così è Gianfranco. No, l'ascolto è libero. L'ascolto è libero, solo la trasmissione deve essere autorizzata per riceverlo il ponte, capito? Però voglio fare un esperimento ancora più arduo. Domino l'omino, a vedere cosa succede. Aspetta che mi sto cercando questo canale. Mamma mia, ci siamo messi bene con la vista. Sì, credo di esserci. Prova a trasmettere. Mi hai sentito? Ah sì, col gommino devo fare. Sì, sì, era in gommino, ma in gommino non ce la fa. Per lo meno in una caffè non ce la fa. Ma sicuramente se ti sposti un pelino a destra, a sinistra, lo sai, no, basta un metro in più o meno che cambia. In coso con l'antennino esterno sei tranquillo, proprio a bomba, mentre invece in diretta con Mino è difficoltoso, tutto lì. Quello dovrebbe, adesso non me lo ricordo, però se non sbaglio c'è anche il VHF. Sì, questo è il digitale completo, l'altro è solo V, mi sembra. L'altro è solo V, ce l'ho tutti e due. Sì, sì, sì, vanno alla grande per comunicare, vanno veramente alla grande. Niente, probabilmente anche io ti sento col gommino andando magari fuori e mettendomi puntato lì verso, oppure salendo sul terrazzino anche, allora è probabile che ci sentiamo lo stesso. Sicuramente sì, ho detto il cubello ci fu. Comunque adesso sappiamo che questa è la frequenza, funziona tutto, poi magari facciamo qualche altra prova più tecnica. Beh sì, da dove sei tu dovrebbe potremmo anche usare il ponte a questo punto, dato che di lì è stato l'abbandono, almeno vedono che lo usiamo, che c'è qualcuno, perché se no quelli dove stanno ce lo tolgono subito, anzi mi meraviglia che ce l'abbiamo lasciato. No, io che problema c'è? Io mi metto il microfono e lo lascio stare acceso, non è un problema. Che problema c'è? Perché da lì con quello sei tranquillo su Olbia anche, rimanendo sempre sul canale, come dire, adesso eravamo in diretta praticamente, ma c'è poi il canale ripetitore, che quello lì va direttamente sull'Imbara, quindi a Olbia ci arriva come niente, in tutta la zona lì. Chissà se di là ce l'hanno. Chi ce l'abbiamo a Olbia che possa fare questi apparati? Blu? Stefano c'è a Olbia, no? Ma ti ha fatto lavorare, siamo sentiti incasinato. Per gli altri non lo so, io sono fuori dal mondo, già fra non lo so. Comunque, ti ricordo che io qua, in 80 metri, ricevo Olbia una schioppettata, mentre a Sassari non ricevevo Olbia. Arriva molto bene, prima stavo ascoltando in 80 e c'era uno che conosco, un allenatore che conosco, per non fare molta pubblicità, stavo parlando con Santa Teresa di Gallura, arrivavano tutti e due una schiappettata. Oltre il 9, addirittura quello di Santa Teresa ha fatto un passaggio da 9 più 20. Va bene, l'hai vista la domanda, Gianfranco, un bel parte. C'è il canalone che un po' mi penalizza, ma in HF in 2 in 1 e neanche in 27 già va bene lo stesso. Però ho capito una cosa, ci sei parlato, ha detto in 80 metri, quindi in HF con Olbia, giusto? Sì, a Sassari Olbia non lo ricevevo, dovevo girare l'antenna, cioè dovevo girare l'antenna, ne avevo antenna di 80, ma anche in 40 dovevo girare, cioè avevo il dipolo, quindi non ricevevo bene. In 50 una volta, ma proprio puntata giusta, 10, 15 e 20, molto molto basso nonostante la puntatura dell'antenna, capito? Mentre qua, senza le antenne, l'antenna è di 80, sento il mondo benissimo. Eh sì, 80, basta avere un'antenna, in quel caso lì la devi mettere in basso, molto in basso, proprio rasente al terreno, se vuoi andare vicino, perché se la metti troppo in alto vai sul continente, fai oltre 300 km, mentre invece se la tieni bassa lavora per onda di terra praticamente. Allora sì, è chiaro che si sente il bianco. Tutto lì, è così. Vabbè, comunque dove sono io, sì, lo lascio in ascolto sul canale di là, troppo tovo, chiarissimo, avanti Natali. Natalino. Gianfra, mi devi scusare, ma il cane mi ha chiesto il premio. Glielo devi dare allora. E glielo dato, solo che era lontano e non potevo rispondere. Lo vedevo seduto lì che mi stava guardando, ma cosa vuole una cosa? E poi ci ho pensato, ho guardato la ciotola e ci aveva mangiato tutto e voleva il premio. A vederla se ti ridomanda, Bustinuso. Sì, eravamo un attimino di là facendo prova in lì. Cosa ti stavo dicendo? Non me lo ricordo più. A me non mi stavi dicendo niente, stavi parlando con Claudio degli 80 metri, io da campagna con la G5RV il mondo ricevevo, arrivavano a fondo scala. Beh, ma lì sono 80 metri, è ovvio quasi, se c'è l'antenna deve ricevere comunque segnali, non è perché è tutto l'altro, spesso il rumore. Così, comunque beh, abbiamo fatto una prova, dai, interessante, giusto per sapere se era tutto operativo, quindi è tutto operativo, ne siamo più che contenti, quindi sta andando tutto bene. Ecco, volevo sapere che apparato mi devo prendere per ascoltare, capite? Io ti potrei rispondere, dipende da quanti soldi vuoi spendere. Il più poco possibile per il momento. tutti al risparmio, tutti al risparmio. Cosa ve ne fate dei soldi? Soldi ne ho un po' pochini, con la scusa che non sto lavorando adesso, se no... io volevo un buon apparato che non costasse più tanto, capito? Dice già ci sono che costano poco e che sono buoni. Sì, perché a quell'età vuoi ancora lavorare. Poi... è fortunato che ti sei andato. Allora, guarda, un attimo, ma proprio qualcosa di giusto per far finta di ascoltare, ma in maniera proprio terra terra terra. No, qualcosa per ascoltare che non sia proprio terra terra. Allora, portatile, giusto? Allora, è così fisso, già lo sai. Allora, ne abbiamo, quello che sto vedendo di meno, come quello che c'ha Claudio, viene 120 euro, poi c'è anche la Nitton che viene 168. Poi questo c'è anche un Baofeng, ma 45 euro, non ci credo che sia digitale, neanche a roccio. C'è anche uno Yaesu, 400 euro. Poi se li vuoi di quelli proprio seri, puoi spendere che ne so, 600, 700 euro. Come quello di Claudio. Ah, allora, aspetta, adesso vediamo. Sì, già lui, zona 1, zona 2, eccetera. Quello di Claudio ti costa 120 euro qua, ce l'ho. Aspetta che prendo la sigla e guardo nei rivenditori più soliti. Ah, da Amazon costa anche di meno, guarda, 110 euro. Se sei con Prime senza, arriva mercoledì, garantito 30 giugno, senza Prime, non lo so, c'è neanche uno che costa di meno. Compatibile molto, ce ne costa 88, però non so se sia bio o banda, questo è il punto di domanda. Quello di Claudio com'è? Di banda. Ehi, vabbè, dimmi la sigla. E allora devi scrivere, poi ti guardi così le caratteristiche, magari lo trovi anche per meno. Re Tivis, Roma Eco Tango, India Victor, India Sierra. Il modello è Romeo Tango 3-5 di MR Dual Band. RT35, sì, l'avevo già visto, però non sapevo se potevo prenderlo, io volevo un parere tuo, ecco perché te l'ho chiesto prima. Aspetta che sta dicendo qualcosa a Claudio, hai detto Claudio? Ho detto con questa me l'ho bombardato, mi senti col baracchino? Sì, me l'ho bombardato, però sempre bene, cioè sempre porti mano. Sì, vabbè, questa stanza è vuota, già. Vabbè, ci andiamo col baracchino, dai, intanto, non serve niente stare con il 430. Sì, Natali, c'è un sacco bellini, molto belli, belli, funzionali, io ne ho due, c'ho il B-Banda e il monobanda, tutte e due, sono tutte e due DMR, guarda, funzionano una cannonata, ma avevamo già fatto delle prove molto più vaste con Gianfranco, lui da Stintino, spiace io da casa, allora a carbonati e ci sentivamo una bomba. Ehi, capala, RT35, l'ho già trovato. Non è il massimo, diciamo, però giusto per fare ascolto va bene, almeno sui ponti. Qualcosa c'è, io volevo vedere proprio, avevo visto i ponti, che c'è qualcuno sul ponte. Magari era Claudio che sta fremendo, forse. Adesso vediamo. Questo qui. Questo è senza GPS o con il GPS? Quello di Claudio ce l'ha sicuramente. Guardati le specifiche. E così lo sai subito. Vediamo un po'. Te lo dico subito, eccetera eccetera. Mi sa che non c'è neanche scritto. Non c'è neanche scritto, guarda. No, il mio è completo, già faccio la GPS. Sì, il tuo ne sono sicuro perché c'era sempre la fa. Così a quello di Natalino le mettiamo Remote Kill e ci divertiamo ogni tanto, no? Quando non vogliamo che ascolti niente, pic, e spegniamo la radio. Ah, ecco il sistema, sì. Che vi fate un merito. Cazzo Gianfranco, non ti sento più, ma sei parito. Invece avevi inserito quel Remote Kill. Io non penso che la radio si sia guastata, ma non funziona, non si sente più nulla. E da voi lo voto a voi. lo puoi fare, se non c'hai il codice accesso non lo puoi fare tu. Ma io già ce l'ho il codice accesso a tutti i dini. Poi, Natali, a quando vado a sfruttare il codice d'accesso, ritorni a nascere. Ui, mi cavio, già lo sa che io c'ero. Vabbè, sono lì, è un edificio digitale, andrà a disturbare. Oramai tutti gli automatoni stanno passando digitale proprio per non aver rotto le balle. Fanno bene, fanno bene. Forse ce l'ha il GPS, non è proprio specificato, però mi sa che ce l'ha. Dovrebbe averlo comunque. E così l'interroghiamo alla radio oppure sappiamo dove è Natalino. È meglio non ce l'ho. Io ascolto solo, hai capito bello bene. Ma hai capito che noi ti mandiamo il telecomando e ti ascoltiamo anche se tu non vuoi e tu non te ne accorgi nemmeno. Ci facciamo pure la posizione, così ti impari. Tu non lo sai che io c'ho il pantalone a svapa adesso qua. Cioè, pantaloncini corti col berrettino, capito? Le scarpe a tennis, infatti si chiama Natalino, pantaloni corti e berrettino. Oppure Natalino, quello che ha preso sempre la coperta, te lo ricordi, Natalinux? Linux. Sì, comunque c'hai il barretto, il pantalone a zavala e lo chassepou, ce l'hai, sì? Io c'ho tutto, aspetta un attimo che sto... Allora, vediamo un po' se mi va di entrare, no? Cosa non ha senso? A che ora chiuderanno le edicole qua? Quelle carburanti chiudevano alle 6, le 6, le 7. A volte non aprivo neanche, boh, non lo so. E cos'è apparente di chi su dalla GBC? Più o meno, quasi due zingari. Senta, quando ti ho lasciato a proposito, che sono venuto da te, e sono sceso, la sera era aperta. Cioè, o meglio, la porta era aperta, dentro c'erano i soliti scatoloni, sono passato così in macchina un attimino, e tutto al buio. Senta, una grotta sembra quel posto. Una grotta, sporco, sporco, sarà anni che non lava per terra, non passa la scopa, ci sono quei vetri che non vogliono visti. Sono le vetrate, l'ingresso alla porta, se sei con le mani pulite te le sporchi e apri la porta. Sporco, veramente sporco quel posto, sporco. Io ho conosciuto quel posto che era una bellezza, quando c'era Massimo che lavorava con lui, una bellezza. Lavato per terra, profumato, tutta la roba a posto, non c'era niente per terra, adesso è un mondo e sai. Io mi ricordo quando c'era il maresciallo, era sempre pieno quel negozio. Non faceva, ed erano in tanti anche, perché non so poi se ci lavoravano anche dei familiari o dei commessi, ma era sempre pieno, ci andava qualunque ora, c'era sempre gente. Chi è che non c'era Renato, ti ricordi? Poi è diventato un animatore. Era un bel posto veramente, adesso è una cosa impressionante, c'è una sporcizia, ci sono quelle vetrine dove sono roba dentro, che c'è due dita di polvere, sulla roba delle vetrine, sui vetri, su tutto, sporco, veramente sporco. No, io non ci sono più andato, ma ho sempre la fusata. Ma penso che, cioè, lui in realtà è un impiegato, non è roba sua. Quando mai la casa, diciamo, dove manda le forniture, non se ne accorge che c'è questa situazione? Non lo so, se è lui proprietario, se è in comproprietà, se è in gestione, se non lo so, non si chiama GBC, la chiamiamo noi GBC, la società si chiama RR Elettronica. Ah, quindi forse di quelli che c'ha la concessionaria solo della vendita di tutti i GBC adesso. Prima era GBC. Esatto, quando era GBC era veramente un bel posto. Poi non so cosa sia successo, se lui ha comprato, se ha mollato, se ha fatto, se è concessionario ancora GBC, però la società, perché un giorno io ho preso del materiale che ci serviva al lavoro, e ho fatto la fattura, ho fatto fare la fattura ed è RR elettronica di come si chiama, di Tonino Bimbomba. Come sei ruinato, mamma mia. Ma vabbè. No, Gianfranco, non è così. Lui si è lasciato andare quando gli è morta la moglie, gli è morta la moglie di tumore molto giovane. E lui non è servito più, non è servito più. Addirittura non andava manco al lavoro, c'era sempre Massimo. Si è proprio lasciato andare completamente, capito? Sì, io lo sapevo, infatti non lo volevo dire, semplicemente. Certi reggono, certi altri il trauma li porta a cadere sempre più giù, capito? Evidentemente non c'è avuto nessuno vicino che l'ha fatto superare quel momento, cosa vuoi che ti dica? Neanche quello, cioè, sicuramente non è stato aiutato moralmente, quindi si è lasciato andare, capito? Perciò io so tutta la storia, non era così. Tonino era una bravissima persona, sempre ordinato, pulito, sì, aveva sta mania del codino, però non era così, aveva una zingara, ma si è vestito sempre uguale, a volte non le puoi stare neanche vicino, sicuramente si sta lasciando andare anche nella pulizia personale, non lo so, comunque, non è messo bene. Ed è un peccato perché alla sua epoca ne trattava anche, cioè era in gamba, andava subito a trovare il pezzo, si diceva le caratteristiche, i sostituti, su quello era molto bravo. Poi quello che è successo è chiaro che sono colpi tosti poi da digerire quando rimani solo. Purtroppo la vita, anche queste cose ci sono. Solo, mi sembra che non abbiamo anche figli, quindi per quello anche che non ha avuto sicuramente un appoggio morale. Tutto lì. Vabbè, pazienza. Spero che si metta un po' in carreggiata, perché veramente quel negozio era paura. Sporco, buio. Come hai detto tu, lui era una persona abbastanza preparata in materia, è un bravissimo commerciante, un bravissimo di elettronica, ne sa un bel. Peccato che si sia ridotto così tutto, non lo so, vabbè. KK, tratta di riprendi, io mi assento un attimo, già torno subito. Aspetta che sto facendo l'ordine di quella roba. Ah, sì, non hai perso tempo, È nata lì, però non ti fare grandissime aspettative, Non è che se io ce l'ho acceso ma non si sente una massa, Ieri sì c'erano qualche persona, però non ti aspettare, giusto, non è per disidurti, ma per dirti com'è la situazione. Perché non c'è mai nessuno, così mi dici. Se ogni tanto lo troviamo in Escladio, se evidentemente, a meno che non vi ascolterà noi, ma è una magra consolazione. Poi non so, poi vedi tu, ecco, è da programmare bene anche. Non è una cosa così banale o un'altra lì. Perché come te lo danno non funziona. Bisogna programmarlo bene, capirne i principi, e allora puoi accendere e ascoltare. Però tieni presente, io ti dico già subito, il ripetitore all'imbara. Tu all'imbara ci arrivi, boh. C'è l'antenna esterna. Mi arrivano quelli che fanno BB, dove sono lì all'imbara? Quelli che hanno la telegrafia. No, sono a Sennori. Ne hanno una Sennori, una Montalvaro, quindi non è esattamente come pensi. Per di più quelli amatoriali sono sempre meno potenti perché sono sempre più in basso. Non puoi fare quel raffronto. Sempre quello io da qua sento anche Cagliari. Però è sempre quella la ragione. Se te ne vai nel piazzale di Osido senti anche i ripetitori amatoriali di Montesserpidi, quello tranquillamente. Se ti sposti sull'altro lato senti quelli di Genova e di Roma anche. Beh, io sento anche il link nazionale di del CISA, quello lì dov'è? Ce ne sono due, uno è a Villanova Monteleone, che sente anche un portatile, e l'altro è era a Bade Urbara, credo, sì, a Bade Urbara, non so se si è acceso perché era un po' spento in questi, quando l'avevo controllato, comunque, è lì verso Bade Urbara, però, ripeto, c'è anche l'analogico, quindi non perdi grandi cose, ecco, non è che stai comprando un apparecchio che funziona solo in digitale, funziona anche in analogico, chiaramente, funziona anche bene in analogico, però è giusto sapere anche queste cose, perché poi magari uno dice ho comprato l'apparecchio che non serve a nulla, capito, invece in analogico si può ancora ascoltare. E in analogico c'ho il ricevitorino qua, era per avere il digitale, per ascoltare quelli che parlano in digitale. Lo so, ma ripeto, non ti voglio creare illusioni, il sistema è eccellente, è ottimo, però manca la materia prima, capito? Cioè coloro che li usano. Ho capito. Non so cosa. Guarda, io neanche io so cosa consigliarti. Quindi se lo vuoi usare come PMR, come cosa, lo fa, non c'ho problemi. Però il discorso è sempre quello. Capito, guai a farsi delle idee sbagliate su quegli apparecchi, perché sono certe cose le fanno, ma occorre anche un pochettino di conoscenza di quello che si sta facendo, perché non c'entra niente con i vecchi analogici, non c'entra niente, cioè le regole sono diverse, capisci? E quindi bisogna sapere un pochettino cosa sta facendo, ecco. E vabbè, vediamo un po' la situazione qua. Adesso c'avevo un'altra carta, invece ho un macello. Come faccio a saperlo programmare? Non ne ho mai programmato uno di quelli lì. Capito? Controlla che sia fornito nella dotazione di cavetto di programmazione. Vabbè che sono più o meno tutti uguali, però è meglio sempre guardare che ci sia. Io ne ho due cavetti di programmazione. Bisogna vedere se sono di quella marca e per quel portatile, se gli attacchi sono identici, perché elettricamente sono più o meno tutti uguali, però dal punto di vista dei connettori poi è tutto un altro discorso. Quelli del Baofeng non vanno bene, no? Non lo so, guarda, io quegli apparecchi, guarda, quelli che ho avuto li ho tutti regalati, quelli, quindi non ti posso dire se vanno o non vanno, ne ho avuto talmente tanti che non fanno testo, ecco. Non lo so, ripeto, Natali, a queste domande così di se buono, se cattivo, se va in un modo o nell'altro, se chiedevi cose sull'Itera io ti potevo dire sì, e così colà devi fare l'aggiornamento da qui, devi fare l'aggiornamento da là, ma oramai su questa roba così di, come dire, di economica, dai, per uso normale e non professionale. C'è tanto di quel, ognuno si fa la sua, quindi è un po' tutto incasinato. Quindi lui può praticamente ricevere le nostre comunicazioni? Se lo programma bene, sì, certamente di sì, se lo programma bene. Però le sto dicendo che non è una cosa così banale, perché bisogna sapere, anzitutto bisogna mettersi nel computer il programma di programmazione, e quello di norma c'è sul sito del costruttore. Poi eventualmente va fatto anche un aggiornamento, se necessario, di norma si fa sempre. Poi con tanta pazienza e tanto tempo, uno a uno si mettono tutti i canali, le frequenze analogiche, poi si passa a quelle digitali, per ognuna digitale deve fare il suo codice, è tutto lì, perché è come un numero di telefono, capito? Però lo devi avere, quello della Sardegna, ad esempio quello che sia 222 000, una cosa del genere, adesso è così a mente, ma approssimativamente è quello, e va inserito. E poi tutti gli altri di seguito. Sì, sì, sì, infatti a me mi appare quello, 222 000, quello. Va bene. E quello che hai chiamato invece quando sei venuto a casa dalla macchina lì dal cancello, che ha risposto quello di Cagliari, che cos'è? Sempre lo stesso? Adesso stanno parlando. Adesso c'era uno che ha fatto chiamata, non ho visto il... Senti? Chilometro 0, X-ray, whisky, Victor, chiama, ascolta. Questo Andrea. Sta chiamando su TG Europa, sembrerebbe, no, quella lì è una rete diversa, quella è una rete dedicata e quindi dedicata a protesta. Switch TV, bella anche quella, va bene, non te l'ho detto già, fra non mi interessi, però ce l'ho e capita che la dobbiamo usare, la usiamo e non è un problema. Infatti adesso c'era questo qua che stava chiamando, però mi ha detto palla col muro. Io infatti non rispondeva nessuno, io la tengo spenta, le vuole un normale, figurati, mi sono con le balle di consumare corrente, c'ho tutti i punti registrati così, ma giusto per ascoltare, niente, che non c'è manco microfono, figurati, non ho messo manco il microfono. Però non si sente più nessuno, vabbè, ci arrangia. Sì, perché sono tutti, sono incasinati, non hanno tempo, hanno perduto anche la passione, anche quello c'è, non me ne frega più niente, magari stanno a chattare, si trovano meglio, e ci sono tante cose, ognuno la prende un po' come vuole. Fare, come tutte le cose tornano, poi spariscono, poi tornano, e dipende dal periodo. E certo questa rete di MR è un peccato, perché innanzitutto è chiarissima e poi copre tutta Italia e anche l'estero, quindi visitando determinati codici poi puoi chiamare una stazione che si trova anche fuori. Però perlomeno qua in Sardegna manca la materia prima, ma mi sa anche in tutto il continente non stanno meglio da quello che ho sentito. Non so, io avevo mollato già da tempo, però a me piace ascoltare, quindi ho rimesso le cose necessarie, ma non c'è più niente. Vabbè, anch'io c'ho poco tempo e non è che devo stare in radio. Mi sto un po' rilassando, anche perché fuori c'è ancora quel vento caldo, ma mi siedo a rinfrescarmi un po', poi ceno, guardo la partita, c'è Francia-Svizzera. Chissà a chi toccherà la finale, perché poi hanno fatto tanta aspettativa. aspettative sull'Italia, quando fanno tante aspettative a volte poi succede il patatrac. Comunque stiamo a vedere, io non è che le seguo, non ne ho visto neanche una, però insomma se vince fa sicuramente piacere, ecco. A me fa piacere che sia qualificata ai quarti con un po' di difficoltà, la squadra c'era, dimostrato, però secondo me è arrivato ai quarti, va a incontrare squadre come il Belgio, la Francia, se passa ai quarti che va in semifinale arrivi in Kiev, secondo me si ferma ai quarti, perché rispetto al Belgio, capito, il Belgio Italia, il Belgio non so, secondo me chi è già voti, comunque staremo a vedere adesso venerdì. Sì, ma cosa il la Germania c'è? Sì, la Germania è ancora in voga, è uscito il Portogallo, l'Olanda, l'Austria, poi chi è uscito, non mi ricordo più, comunque c'è, oggi c'è Francia-Svizzera, poi non so se quando gioca la Germania, ma già c'è, quella è forte lo stesso. E per tradizione è quella che tocca sempre a noi, no? Noi alla Germania sappiamo sempre che i conti sono spesi, quindi ogni tanto ci ritroviamo ad afferrarci così. E comunque sono sempre belle partite quando gioca la Germania contro di noi, che vinca o che perda. È sempre una lotta all'ultimo sangue. Vabbè, io dico sempre vinca il migliore, poi si arrangia ogni tanto. Dal calcio non ci aspetta niente a noi, già voi ti dico. Natalie, fatto è quest'ordine. Vasco, posso parlare? C'è la 50. Ma aspetta, Gianfranco, mi sta chiamando mia moglie. Sì, Natalie ha detto che non ho... si è impegnato. C'è la lotta, c'è la lotta. Se non trovo qualcuno che mi aiuti a programmarlo non me ne faccio nulla, dai. Non è ordine, dai, mi sto misurando la glicemia che è già venuta la megera a rompere le scatole e a metterti a voce. Ciao a tutti, da querti per me. Sempre a terra di cui non c'è da programmarlo, perché non troppo programmare anche Gianfranco, non è quello il problema, queste mogli cazzo sempre in mezzo ci mettono, per carità. Tutta la colpa di Giulio, che non gliel'ha detto. Vabbè, non glielo che ti faccio. Non l'ho avvisato che era così. Hai prodotto la bici, adesso pedala. Vabbè, io sono 40 anni con mia moglie, ma non interferisce nelle mie cose. Immagino che un parla una cosa, ma un pareggio, devo che hai permesso a lei. No, non sta interferendo su queste cose, sta interferendo su altre cose. Sulla tua malattia, diglielo tu. Già abbiamo sentito. Allora sono altre cose vostre, però purtroppo questo hobby ci porta a comprare sempre qualche novità. Tanto non abbiamo altri vizi, cosa dobbiamo fare? Hai detto bene. Almeno quello, e poi siamo anche sfigati che a volte ci dice male, e quindi anche quello c'è. Lo so, però mi hanno capitato anche novità così, poi lui è appassionato, lui ha sempre avuto tutto, di tutto, di più, aveva una bella stazione, una bella sala radio, aveva tutto, grande SWL. Forse l'unico provincia di Sassari che aveva il diploma come SWL. Non lo so, casino, è un casino, cazzo. Ce l'ho anch'io, io ce l'ho, il mio è storico quasi, oramai è un reperto storico. altro che ho il nominativo. Anche io ce l'ho. Anche io ce l'ho, ce l'ho dall'81. C'è la latta 1981, invece WL, 821 Cagliari. E vabbè, no, ma lì ci viva molto, ho capito tutte le cose. Mi è sempre piaciuto a Natalino avere tutte le cose da ascoltare, da seguire, da vedere. Quindi, ma il mondo digitale sta iniziando a appassionarlo. Dai Esther, eccoci a voi. E Giulio, sempre obbedendo il ciclismo. Adesso cadono di nuovo, si troncano il collo. Grazie a quella che hai visto anche tu forse, Claudio. Trovavamo in bicicletta, prendeva la bicicletta e la mantenevo sul collo, semplicemente, ma ben messa però, a vedere se si fanno certe cose, fai cadere tutto il gruppo per una scema, per una passa furiosa. Io l'ho visto, la televisione, ma ora mi va tutta, ma la biblia da lì da rubare tutti i bicicletti una per una a testa. Cioè, ma veramente, cioè, guarda, ci sono delle persone che il cervello se lo dimenticano a casa sempre. Cioè, è una cosa allucinante. Ma secondo me non si mette in mezzo strada con quelli che passano. Cioè, uno li vede così, che passano, sembra che passino piano, ma quelli sono anche a 40 km quando si incazzano anche 50. Come fa a frenare quando ti crolla un muro del genere? Ma qua c'è gente fuori testa alla grande. Sì, io lo so, c'è a vedere. Lo so. Però quando c'è gente così, ma lì anche il servizio d'ordine, lo staff, le cose devono cercare di mantenerla al di fuori questa gente, non farla lasciarla in mezzo alle balle. Non ho visto neanche polizia lì, quando fanno a noi ci sono le staffette, i motociclisti dalla stradale, ma ti direi che sembra proprio una cosa così. Siamo adesso accorto. Oh, e meno male il Giro di Francia, forse è stato il giro, che ne so, di Sorso, ma cavolo, il Giro di Francia. Sì, è così. Va bene, dai, io mi allontano, ma vado un po' fuori, a prendere una boccata d'aria. Se ci siete ci aggiorniamo dopo, ok? Tanto sono già le 7 passate, qui sono le 7. E anche io, sono le 7 e un quarto passate da un minuto, anch'io mi associo. Vado a farmi un giretto così, una passeggiatina fuori, se no con questo caldo proprio. Va bene, buona frescura, dai. Sì, dai, così mi innaffio pure due piantine, ci sono. È calato un po' il caldo. Ciao Gianfra, tienimi aggiornato per quella cosa che ti ho detto al telefono e poi teniamo questa in monitor, mi adesso sta caricando, così è sempre bello carico. E ci aggiorniamo anche lì, ok? Ciao Tartarino. Sì, ciao Natalino, se sei ancora in ascolto. Comunque, se appena so qualcosa, mi auguro in questi giorni, ti informo se va bene o se va male, ecco. Tutto lì, vediamo un po' cosa succede. Via, d'accordo, teniamoci aggiornati, ciao. Ok, ciao. Ciao Natalino, se sei in ascolto, buona scena, buona serata. Ciao a tutti e due. Ciao Tatari, su con la vita. Thank you. Luca! Attenzione Luca, ci sei? C'è qualcuno? Cappa!